tua vita mi è scritto un panno c'è una leggenda che legge mi giudica. Se sai mai c'è un sacco ci fatta per stare un po' che vertigina subito. Ho successo da robo la tutto migliore perché ce le racchi da ascolta. E che so se è vero mi ascoltano pure mi sentono solo in dei momenti morti. Sta vita che passa le reprecipitente salve si seri in da prima classe. È solo un modo per morire più comodo e subito vado a pensare che sono stanchi. Sono solo una foto con Paolo Cantini. Sono solo una voce che insieme ma viri. Sono solo un umano che ce l'ha fatto perché teneva solo più cose da dire. E non perché sa quella una memoria solo fastidio. Sono scelta sta nottata suggerisce sarei che sei stato sulla conseguenza. Quando sai che si da gira cara prima come fai a essere triste? Come fai a essere triste? Come fai a mantenere tutto cosa? Non mi schiaccio, io resisto sempre. Io ho già spesso sulla mente un desiderio. Eravamo tutti più ricchi prima da miseria. Da una fotografia vecchia stiamo ancora noi. Non vega luce perché siamo noi. Stanno ancora nato pare desiderio. Si sorte fa una vita sulla mia pelle. L'amore serve a poco quando ne è sincero. Fatta nata fotografia, io sono solo un premio da galleria. Sto mangiando un sacco senza appetito. A chiesto te cosa con presunzione. Te sta gente d'applaudo e te remozione. Ma si vuole te fanno l'esecuzione. Teneva una missione, rendere a padre orgoglioso. Si va stanca, si rumeva pure si mare abusava. Questi managgi scalata una montagna. E perché se casi mangio non me lava. Aria di spalle quando è cortellata. Ma è una mano camarata una buttata. Perché dico cazzo solamente a mamma. Ho una foto insieme a un fan. Come io sono burpata. Mi è rimasto un compagno sura. E mi chiama Manuela. Non sapevo manco nome d'arte mia. Sto perdendo l'umiltà. Sto vincendo tutte gare. Primo come una va puttana. Ma da fanno tu miracolo. Io ho già espresso sulla mente un desiderio. Eravamo tutti più ricchi prima da miseria. Da una fotografia vecchia stiamo ancora noi.